La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, in questo venerdì 18 novembre, 16:30 primi, 39 secondi, in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino, come sempre, vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e il numero di telefono per intervenire oggi, 800 24 00 24. Vi dico subito di che cosa trattiamo, e lo facciamo perché stamattina l'articolo di un quotidiano mi ha colpito per il suo titolo e ho trovato tutte le cifre che oggi vi riproponiamo con l'autore. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di una cosa che nella riforma scusate, della Costituzione, purtroppo, quella su cui si voterà il 4 dicembre, che purtroppo non è toccato. Con mia incomprensione, lo dichiaro, noi non parliamo del referendum, ma parleremo di un tema che non ho capito perché non è toccato dalla riforma, e cioè di che cosa parliamo? Di quanto risparmieremmo, conti precisi alla mano, se avessimo approfittato della riforma costituzionale per affrontare un problema che da decenni si è ormai manifestato, cioè quello relativo alle riforme mancate nelle regioni a statuto speciale, che, come sapete, qualunque sia l'esito del referendum, vinca il no, vinca il sì, comunque deciderete, andate a votare o meno e che cosa voterete, ma comunque resteranno esattamente come prima nel nostro ordinamento, e si risparmiano un mucchio di soldi, perché il titolo dell'articolo di cui parliamo oggi appunto mi ha colpito, perché è praticamente quasi un punto di PIL che si risparmia. Cioè si risparmiano la bellezza di 14.476.987.000 euro l'anno. Attenzione, non abrogando le regioni, ma levandogli le facoltà di cui godono per statuto speciale. Brevissima introduzione. Lo statuto speciale a queste regioni è stato consentito nella Costituzione del 47 perché? Per ragioni storiche di ordine vario e diverso. Ce n'erano alcune, in particolare la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, nelle due province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, per cui c'era una delicata questione che da una parte era quella delle minoranze linguistiche, stante che erano regioni in cui nella storia il confine era stato spesso al di qua che al di là, non erano state italiane nella storia, e poi c'erano delle questioni pendenti relative ai trattati successivi alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi era un problema delicato, per così dire. Poi nel caso della Sicilia c'era un problema che era molto vivo allora, dell'indipendentismo che arrivò a essere armato, ricordo Levis, no? L'esercito di volontari per la Sicilia indipendente, e quindi si decise per l'autonomia speciale, e poi vi si abbinò contestualmente anche la Sardegna. Allora la domanda diventa: ma quelle ragioni storiche esistono ancora con la stessa forza di quell'epoca? La mia risposta, questa è la mia opinione personale, è no, perché sono state superate da decenni sia le questioni territoriali dei trattati, sia la tutela delle minoranze linguistiche e così via. Il problema è che lo statuto speciale invece resta, non viene mai toccato. Questo significa che la disciplina è completamente diversa da quella delle regioni ordinarie, altrettanto il regime dei controlli. Abbiamo fatto più puntate relative alla Sicilia in questi anni che su tutto il resto. Ma detto questo, altra cosa è fare un conto preciso di che cosa avrebbe voluto dire e di che cosa vorrebbe dire il giorno in cui si decide di superarla, questa faccenda, questa specie di scudo rafforzato che l'autonomia speciale concessa a queste regioni. Io, per quello che riguarda la Sicilia, l'ho detto innumerevoli volte, lo considero nel caso siciliano uno scudo a difesa della dilapidazione di risorse, però questa ovviamente è la mia opinione personale. Allora, oggi sul quotidiano La Verità un collega, Pietro Vernizzi, ha scritto un articolo di una pagina intera mettendo in fila delle cifre, e allora gli ho detto: vieni al microfono e raccontiamo ai nostri ascoltatori queste cifre, da dove vengono, come vengono computate, qual è il criterio preciso che poi sommandole arriva a questa rilevante cifra, se permettete, 14.476.987.685 euro. Io vi ricordo che abbiamo fatto delle trasmissioni nelle quali il risparmio per gli organi costituzionali, la riforma della Costituzione, dai 500 milioni che era stato dichiarato all'inizio, è sceso verso 40-50 milioni di euro l'anno. Qui stiamo parlando di 14.476 milioni di euro l'anno. Allora, l'autore è con noi, si chiama Pietro Vernizzi, grazie del lavoro che hai fatto su questo, quello che fai da anni, e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera. Allora, come sei arrivato a questa cifra? Allora, il calcolo è molto semplice. Sulla base dei dati ISTAT, una regione a statuto speciale in media spende 5.083 euro l'anno per abitante. 5.083. Esatto. Una regione ordinaria spende 3.504 euro per abitante. Per quello mi sono chiesto quanto spenderebbero le 5 regioni speciali se in totale, se avessero la stessa spesa media per abitante delle regioni ordinarie. E il risultato è questo: 14 miliardi e mezzo l'anno. Ovviamente le singole regioni a statuto speciale spendono somme diverse tra loro. Andiamo dagli 11.125 euro per abitante della Valle d'Aosta ai 10.708 dell'Alto Adige e i 9.200 del Trentino. Ovviamente le regioni piccole spendono di più per abitante, perché certo, non possono fare un'economia di scala. Però no, questo però, ti interrompo, questo è un altro criterio infatti per, in una riforma seria, proprio per quello che hai detto, più piccole sono le regioni, meno sono un ambito ottimale di utilizzo delle risorse, come si vede spendono molto di più pro capite, sarebbe stata l'occasione, questa è la giustificazione economica, per accorparle oltretutto le regioni, però noi non facciamo neanche questo. Vabbè, comunque, allora quelle sono le tre che spendono di più, e quelle invece a statuto ordinario che spendono di meno quali sono? Allora, sono il Veneto che spende 2.920 euro e la Campania e il Piemonte entrambi 2.988. Tra l'altro questo dato smentisce un luogo comune, cioè che le regioni meridionali siano quelle che sprecano di più, perché invece la Campania è una delle regioni più virtuose. Stiamo parlando della Campania del 2014, del 2014, del centrodestra. Sì. Però si capisce che c'è un gap molto molto molto forte, per così dire. Se andiamo invece a una regione come la Sardegna, sempre a statuto speciale, quanto spende? La Sardegna spende 4.321 euro pro capite, cioè 1.333 euro in più rispetto alla Campania e 1.400 euro in più rispetto al Veneto. Direbbe difficile che una spesa di praticamente il 25% in più rispetto al Veneto genera servizi di qualità in proporzione superiore a quelli del Veneto. Tenete conto che il Veneto, se parliamo della sanità, insieme all'Emilia Romagna e alla Lombardia, stiamo parlando della qualità e dell'offerta sanitaria certificata in termini comparati migliore in tutta Italia. Quindi, come si vede, non è solo un problema di livello, il livello già dice molto, poi il problema è come viene gestita e come viene organizzata e come viene organizzata la spesa. Se andiamo a vedere, hai analizzato a un certo punto i trasferimenti che lo Stato fa alle regioni speciali e quelle ordinarie. Sì, esattamente, e in questo caso emerge che le tre regioni a ricevere assegnazioni più basse sono il Lazio con 158 euro, le Marche con 205 euro e la Lombardia con 215 euro. In questo caso però stiamo parlando di trasferimenti diretti, esclusa la compartecipazione all'IRPEF, per esempio. Esatto, tenete conto che sul dato 2014 del Lazio, che è così basso, conta il fatto che il Lazio tra le diverse regioni ha programma di rientro coatto della sanità, cioè quelle chiamate alla maggiore quantità di risparmi per il programma di rientro coatto, era quello che aveva il programma di rientro coatto della sanità più rilevante in corso, quindi quello spesa, quello giustifica il fatto che in quell'anno e nel precedente e così via il contributo fosse il più basso, perché abitualmente nelle serie storiche non è così. Comunque questo per spiegare perché a Lazio nel 2014 il contributo è così basso. Mentre le regioni con i trasferimenti più alti sono in primo luogo l'Alto Adige con 1.300 euro, ancora una volta una regione a statuto speciale, seguita dal Molise con 1135, la Campania con 952. Però una certa qual differenza, direi. Una certa qual differenza. Allora, fino a questo momento vediamo dei dati che sono tra di loro rilevantemente disomogenei, no? Proprio in maniera molto molto molto significativa. Ed è questo, secondo me, che rende pressoché ingiustificabile il fatto che una volta che si mette mano ai poteri, è giusto, si mette mano ai poteri del referendum, però non si tiene conto di queste diversità che sono così accentuate da generare, secondo me, più che legittimi interrogativi, cioè perché non si riesce bene a capire la ragione storica per cui si siano cristallizzati andamenti di trasferimento di spesa pro capite eccetera eccetera in maniera così significativa, no? Io non so che impressioni ti sei fatto fino a questo momento, perché poi ci sono altri dati da dare. Allora, l'impressione che mi sono fatto è che un conto è la spesa complessiva. Per esempio, sappiamo che il Trentino Alto Adige si deve pagare anche tutti gli insegnanti, cioè ci sono situazioni locali diverse. Certo. Però fatto sta che alcune regioni hanno deciso, per esempio, di tagliare la spesa, magari anche per abbassare le tasse. Altre regioni invece beneficiano di trasferimenti così alti che si possono permettere di non tagliare nulla. E questo però, capite cari ascoltatori, che deriva probabilmente dal fatto, perché conta anche questo, che nell'evoluzione dei processi politici l'influenza che quelle regioni hanno avuto, sia pur nell'alternarsi dei colori politici del governo, è stata più continuativa, nel senso di assicurarsi flussi di trasferimento, rispetto a quella di altre regioni. Ma capite bene che dal punto di vista dei cittadini che risiedono e operano in quelle regioni e che sono chiamati magari a sovraliquote, perché diverse di quelle regioni poi hanno comunque i programmi di rientro coatto della sanità, non può essere una giustificazione facilmente accettabile, perché questo riguarda la politica, per così dire, e i mezzi che la politica usa per comprare il consenso ed avere le conferme di colore politico alle diverse elezioni di governo delle regioni. Ma dal punto di vista dei cittadini contribuenti, andamenti così difformi per me sono qualche cosa che giustificava davvero il mettere mano a questi meccanismi. Sentiamo Gabriella che ci chiama da Roma. Prego Gabriella. Eccomi qua. Sì. Niente, io volevo dirle semplicemente che questa proprio questa cosa che ha tirato fuori questa sera è un argomento che a me assilla da parecchio tempo, da tanto, e perché si continui appunto ad avere queste regioni a statuto speciale con cui c'è uno spreco immane, soprattutto sentiamo normalmente la Sicilia, poi comunque anche le altre regioni non è che poi ridano, ma con la Sicilia è davvero qualcosa di tremendo, si sentono queste cose, però nessuno pensa di dire perché la Sicilia deve continuare a fare questo spreco. No, ma in più io non voglio dire, perché altrimenti sembra che ce l'abbiamo con i siciliani, per esempio non è un mistero che in ragione della molto più elevata percentuale di risorse che sono riconosciute sul totale del gettito delle imposte come risorse proprie, la percentuale più alta di risorse proprie spetta all'Alto Adige da questo punto di vista, che ha risorse proprie rafforzate per di più, le due province di Trento e Bolzano, virgola, non particolarmente in basso, anzi il contrario, come ovvio, c'è un filo di ironia in quello che dico, nel ranking, nella graduatoria italiana del reddito medio pro capite, sono quelle che hanno le risorse, grazie anche poi all'efficienza con cui le hanno amministrate, a differenza della Sicilia, però hanno molte più risorse, tanto da poter offrire programmi di sostegno alla ricollocazione del lavoro, programmi per l'edilizia popolare, programmi per l'edilizia ai giovani, che è uno dei problemi fondamentali in questo paese a bassissima demografia. Però il problema è che loro le risorse ce l'hanno, nel resto d'Italia no. Io non sono un egualitario, però capite bene che stiamo parlando di una spesa che nell'Alto Adige, la spesa nell'Alto Adige è di 8.864 euro pro capite, rispetto al fatto che in Veneto è di 2.741. Va bene che si devono pagare, come vi ha ricordato Pietro Vernissi, anche gli insegnanti del Veneto, no, ma qui stiamo parlando di una spesa che è 4 volte superiore come ordine di grandezza. Allora, ha senso vivere in un paese in cui le risorse pro capite hanno una differenza nell'ordine di grandezza di 4 volte, virgola, soprattutto se in questo paese poi il disagio sociale, virgola, le differenze di reddito medio pro capita, virgola, i tassi di partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e delle donne sono concentrati da tutt'altra parte, e non è certo un demerito di chi vive o a chi amministra le due province autonome dell'Alto Adige, è una questione generale di equilibrio e di equità. A me sembra c'è in ballo un punto di PIL del paese, 14 miliardi e mezzo in questa disparità di cifre. E a me sembra una cosa che io non riesco a capirla, la storia, per cui veramente non c'è stato mai verso di mettere mano a questa questione. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, poi torniamo con Pietro Vernizzi e con le vostre telefonate. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, stiamo parlando di i divari e gli aggravi di spesa che sono comportati dalla distanza che dalla spesa media pro capita delle regioni ordinarie è realizzata attraverso quelle invece a statuto speciale. Stiamo parlando di 14 miliardi e mezzo di differenza se adottassimo invece un criterio standard. Siccome siete un pubblico esigente, io ve lo riconosco, molti di voi dicono: beh, però ci stupisci perché stai facendo un discorso solo sugli aggregati quantitativi, una cosa fondamentale è misurare la qualità della spesa. Sono d'accordissimo con voi, ho detto assolutamente che qui ci sono livelli di spesa pro capite che non danno qualità di servizio comparabile, vi ho ricordato alcuni casi, sono d'accordissimo. Io vorrei un sistema nel quale si pesassero le medie, ma si misurassero poi con dei criteri standard dei coefficienti di servizio offerto. Quante volte in questi anni abbiamo sentito il professor Antonini sulla faccenda dei costi standard? Non torniamo su questo, ma ripeto, intanto c'è una questione di un rilievo molto rilevante della diversità di risorse a disposizione e di trasferimento. Sentiamo Ugo che ci chiama da Bolzano. Ugo, prego. Buonasera. Sì. Ecco, no, volevo ricordare il caso della provincia di Bolzano che ha attuato uno scambio, competenze in cambio di soldi, praticamente. Sì. Alla fine, non so come venga fatto il vostro calcolo, la provincia di Bolzano ha un bilancio di 5 miliardi e mezzo di euro? Sì. Più o meno, 500.000 di abitanti che sono 1/100 della popolazione, la spesa totale dello Stato è 880 miliardi, non mi sembra questo grandissimo spreco. Adesso, no, ma aspetti, perché io poi ho detto prima come esempio che c'è l'istruzione, ci sono anche gli infermieri in carico al bilancio della provincia, però voglio dire questo, siccome ho dato atto e do atto, perché oggettivamente bisogna riconoscerlo, che la qualità dell'amministrazione nelle due province è elevata, no? Rispetto ad altre parti d'Italia, però mi segua in questo ragionamento, a fronte di una quota così più rilevante rispetto alle altre regioni di risorse proprie sul totale del gettito, ci aggiungiamo il fatto però che c'è anche un'assegnazione diretta, cioè il trasferimento diretto annuo da lo Stato è quello più alto d'Italia, nel senso che mi accontenterei a quel punto e batterei le mani se le due province avessero la quota di risorse proprie, che giustifica quindi una spesa pro capite di 8.000 e rotti euro rispetto a chi ne spende 2.700 come il Veneto, ma in più a questo si aggiunge che l'Alto Adige si becca ogni anno 1.300 euro di trasferimento pro capite dallo Stato. Molise 1135, la Campania 952 e così via. Allora, capisce che questo, il trasferimento elevato a fronte di una quota molto elevata delle risorse proprie, è un portato appunto dell'autonomia speciale, della ragione storica che ho richiamato all'inizio, che erano fondatissime, per carità, è morta della gente fino alla fine degli anni 60 per via dell'autonomismo, quindi io prendo sul serio tutta la storia e le ragioni che c'erano dietro, non trascuro affatto l'importanza della scelta che fu fatta dai padri costituenti allora. Adesso questi numeri secondo me avrebbero bisogno di un equilibrato ma deciso intervento, perché ci sono parti d'Italia che invece le risorse proprio se le sognano, a parte come stanno messi i comuni poi grazie al blocco dei trasferimenti di questi anni, eccetera, eccetera. Quindi Ugo, non è mica disconoscere il fatto che lì ci sia una qualità dell'amministrazione, però ci sono le risorse, altrove non ci sono le risorse, oltre a non esserci la qualità. Allora bisogna chiedersi perché dalle altre parti le risorse spariscono e non si sa dove finiscano. Anche questo, sono d'accordo. Vista la maggioranza della popolazione di lingua tedesca di qua, guarda che se l'Italia gli lascia l'indipendenza e gli fa andare fuori, gli fa solo un favore. Ah no, questo io non metto in dubbio, detto tutto questo, resta secondo me un problema, ma riconosco tutte le specificità. Però, santo Dio, qui ci sono ordini di grandezza di 4-1. Enzo da Carbonia, che dice Enzo da Carbonia, quindi dalla Sardegna? Beh, in effetti il cittadino di Bolzano ha messo già in evidenza gli aspetti che anche lei ha messo sicuramente all'inizio. Sì. E devo riconoscere che chiaramente, prima di tutto, loro sono una quantità di abitanti piccola, sì, e quindi è anche più facile gestirlo, ma bisogna anche riconoscerli che loro quei soldi li stanno utilizzando anche chiaramente, ne non discuto, è vero, e stanno dando come possiamo dire servizi ai cittadini in modo adeguato, cosa che purtroppo nelle altre due regioni, compresa la mia, la Sardegna, sì, in proporzione i servizi non sono adeguati ai soldi che in effetti arrivano. La nostra autonomia non siamo stati capaci a farla valere. Non discuto, io le rendo merito di dirlo. Tra l'altro c'ho la curiosità perché mi chiama da Messina, quindi dalla Sicilia, Orazio. Orazio, che dice? Buonasera. Buonasera. Ma io dico questo, che le faccio una proposta. Attuiamo tutti gli articoli dello statuto autonomistico siciliano, sì, in particolare quello che riguarda le imposizioni, che riguarda le tasse. E allora tutte le imprese e chiunque svolga attività economiche nella Sicilia, per lo statuto, dovrebbe pagare le tasse esclusivamente in Sicilia, tutte le tasse esclusivamente in Sicilia. Ma le sembra logico? Questo prevede lo statuto. Purtroppo non è mai stato attuato. Ma non purtroppo, era una cosa. Purtroppo. Scusi, Orazio, adesso siamo alla storia. Nella storia, non conta quello che penso io. Nella storia non è mai stato attuato, magari non ci fosse la Corte Costituzionale, ma da che c'è la Corte Costituzionale, l'attuazione di quella norma sarebbe caduta sotto la decisione della Corte Costituzionale, perché quando quello statuto fu scritto così, si temeva davvero di perderla la Sicilia, ma attuare quella norma solo alla Sicilia si paga, solo alla Sicilia, configura un ordinamento diverso da quello nazionale. Detto questo, la Sicilia non è in condizione di dire quello che abbiamo avuto l'abbiamo gestito pazzescamente bene, bensì il contrario, e quindi secondo me si fa l'interesse dei siciliani a dire smontiamolo lo statuto speciale, perché almeno vi diamo più armi per difendervi e per stare meglio. Però questa, ripeto, è la mia opinione. Comunque, grazie a Pietro Vernizzi che ha messo in fila col suo lavoro certosino tutti i numeri comparati, e buon lavoro. Controllo sulla 24, appuntamento domani per i 1000 giorni del governo Renzi, bilancio complessivo dalle 10 alle 12 ai conti da Belva con me, che è Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, perché c'è la conferenza stampa tra pochi minuti dei 1000 giorni.